YouTube. E ve lo abbiamo anticipato prima del giornale radio, perché il grande argomento in rete e non solo di questo periodo è ancora, anche per questa settimana, costantemente, inevitabilmente, questo. Essere o dover essere, il dubbio amletico. Contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo. Intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, spera. Comunque vada, pantarei, singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. Ale canta Francesco Gabbani, ma non c'è solo lui, perché la rete si è popolata di parodie. Abbiamo cominciato un paio di settimane fa, adesso è passato un mese dal Festival di Sanremo, 50 milioni di views. Abbiamo fatto il conto prima nel giornale radio, io e Cristian Goldoni in redazione, abbiamo visto che il fenomeno dell'anno scorso, che era Andiamo a comandare di Rovazzi, ha fatto in un anno 124 milioni. E qui siamo già a 50 milioni in un mese solo. Moltissime le parodie, ad esempio questa è quella dei Pampers, famosissimi. Ma che cosa, dobbiamo andare in vacanza, andiamo con la macchina di tuo nonno. Ah, che figa, va benissimo. Ma mica di quando è? L'ho anche personalizzata, cioè Vale qua, va più capito, veloce. Sì, con Vale lì va più veloce. Fida, ti fidi? Ma almeno c'ha il navigatore. Ma non c'è niente. Dobbiamo andare in giro. Ma come i vecchi tempi, no? Chiedere o non chiedere, il dubbio amletico. Questa cartina c'ha le mappe del neolitico. Dietro si sta seduti in tre, se uno è gongolo. Dai scherzo, io ne ho messi sei, ma ero a Cagliari. E il bagagliaio, se vuoi usarlo, chiedi agli acari. Qui le altre montano l'airbag, noi il pass disabili, col suca vigili. Questi sono i Pampers, che sono seguitissimi dai ragazzi, infatti ha un sacco di views anche questo video. Dio, mi sono dimenticata di contare quante sono, ve lo dico tra poco. Vado a controllare quante sono le views di questa parodia dei Pampers, ma appunto abbiamo detto quella vera, 50 milioni, perché immagino che non siano solo italiani, anzi è molto vista in Europa, molto ascoltata anche finalmente anche nelle radio europee, e a me fa paura dirlo, ma in tanti dicono che potremmo piazzarci bene, io metto moltissime mani avanti, anche all'Eurovision. Quindi cominciamo a parlare di Eurovision, lo facciamo come sempre con Eddie Anselmi. Ciao Eddie. Ciao Marta e buon pomeriggio all'ascoltatrice e agli ascoltatori di Radio 24. Allora, la parodia di Gabbani dei Pampers ha fatto già 1 milione, tanto per farvi capire quanto sono amati dai ragazzi questi Pampers. Ma se pensi, nella storia dell'Eurovision, insomma, da quando YouTube è decollato come fenomeno, il motivo più visto, il video più visto è quello dell'album, della canzone del volo. Aha, quindi sempre nostro. Alla vigilia del concorso, che sfiorò gli 80 milioni. E quest'anno, se pensi che con 80 milioni in 2 anni, se pensi che dopo la canzone invece di Gabbani ha sfiorato gli 80 in poco più di un mese, presto dire, insomma, si possono fare dei conti entusiasmi. Esatto, io però ho sempre molta paura, quindi sono molto scaramantica e non dico niente. Mancano 2 mesi all'Eurovision. Intanto però ho letto che Francesco Gabbani girerà l'Europa, si farà vedere, si farà conoscere anche fisicamente. Sì, adesso è chiuso nel suo studio di Gallarate a completare il terzo album di prossima uscita, il suo terzo album solista, e Dopodiché dovrebbe appunto fare parte della line-up dei tre eventi promozionali precedenti all'Eurovision, cioè i preview party, si dicono, sono eventi organizzati a lattere, non dall'organizzazione, però per dare anche l'opportunità a chi non riesce a recarsi a Kiev, in questo caso, di vedere una selezione di artisti eurovisivi esibirsi dal vivo. Sarà a Londra, a Amsterdam e più tardi a Mosca. Beh, quindi lui ci sarà e continua a farsi vedere. Tra l'altro, appunto, io vedo sui siti stranieri c'è grande attenzione. In tanti hanno anche, si sono anche così hanno contribuito a diffondere questo hashtag Scimmiografo Challenge, che sono questi video in cui si cerca di riprodurre il balletto della scimmia. Il balletto è stata una mossa assolutamente inaspettata, perché quando tutti l'abbiamo visto a Sanremo, è rarissimo vedere un balletto a Sanremo, eh? No, noi ricordiamo magari quello di Francesco Salvi con Esatto, ricordiamo insomma pochissime canzoni con Salirò, l'abbiamo citato tutti fino a Salirò. Ma nessuna canzone con la Dance Routines, se eccettuano proprio qualche mossa fatta da Celentano quando cantò Chi non lavora non fa l'amore nel 70, insomma nessuna canzone con la Dance Routine aveva mai vinto il festival. Senti, io vedo sul tuo account di Twitter @EddieAnselmi hai scritto recentemente del fatto che non c'è ancora conferma della partecipazione della Russia. Succederà mica qualcosa di strano col fatto che si va in Ucraina? Allora, la Russia si è iscritta al concorso e siamo in attesa di conoscere la canzone che appunto dovrebbe rappresentare Channel One. La Russia ha due canali televisivi che partecipano a turno, uno Russia partecipa negli anni pari e negli anni dispari, ma appunto partecipa il primo canale, Channel One. La Russia non ha ancora annunciato la sua canzone, sta montando un movimento di opinione che invita appunto il paese a non partecipare al concorso di quest'anno in Ucraina. E quando è il termine per presentare la canzone? Ma il termine è teoricamente oggi, chiaramente i termini sono elastici. Dopodomani a Kiev ci sarà il meeting dei capi delegazione, quando appunto le canzoni saranno presentate tutti ufficialmente, i materiali di scena, le basi saranno consegnati all'organizzazione. Per la sera di lunedì il primo canale Russia ha annunciato un talk show dove appunto si discuterà se è il caso di prendere parte o no. All'inizio questo, dico quello che arriva da Mosca, insomma da traduzioni delle notizie in Russia, all'inizio l'opinione pubblica sembrava contraria a un eventuale boicottaggio, e invece dopo qualche voce famosa come Filipp Kirkorov, che è uno insomma dei più noti autori e cantanti della musica russa, che l'anno scorso aveva scritto la canzone di Sergei Lazarev, che appunto arrivò terza, il grande sconfitto dal loro punto di vista, perché appunto pensavano di avere la vittoria in mano, stravinsero il televoto, più o meno. Certo. Successe ai russi come la stessa cosa che successe a noi italiani nel 2015, conquistarono i favori del pubblico, ma le giurie penalizzarono la loro canzone. L'anno scorso poi ricordiamo che per le giurie avrebbe vinto l'Australia, per il televoto avrebbe vinto la Russia, la canzone che invece riuscì a piazzarsi meglio nelle due classifiche fu quella dell'Ucraina, che senza essere la preferita né degli uni né degli altri, alla fine si aggiudicò il concorso e anche appunto l'onore e l'onere di organizzarlo quest'anno. Insomma, poi la politica ha sempre il suo ruolo. Ti chiedo un'ultima cosa, chiedendo un attimo di pazienza ai colleghi della viabilità, solo qualche secondo, ma voglio sapere se esiste già qualcosa dei nostri fratelli di San Marino, se abbiamo già qualche indicazione, si sa nulla? Anche lo dobbiamo aspettarli? Da San Marino tutto tace. C'è una canzone, il direttore della televisione sammarinese, Carlo Romeo, ha parlato di un duetto di un artista comunitario e un artista non comunitario. Però, quindi insomma, magari tutto... sammarinese potrebbe essere non comunitario. Il sammarinese tecnicamente è non comunitario e i britannici sono ancora comunitari, per esempio. Ah, quindi tanti rumors ci sono. Ah, ci sono. I rumors ci sono. Esatto, sono usciti i tweet parlando di grandissimi nomi della musica. È la musica pop molto noti degli anni Ottanta, però non è stato appunto né confermato né smentito dai capi delegazioni che in questo momento stanno tenendo la carta della loro partecipazione di quest'anno nel mazzo e credo che aspettino di scoprirla all'ultimo minuto, proprio quando tutte le canzoni saranno bello, bello, rivelate. Bello, sono contenta. Stasera invece le attenzioni dei fan europei sono rivolti a Stoccolma, dove si svolge appunto il Melodi Festival, forse la manifestazione insieme a Sanremo, la selezione nazionale più prestigiosa per le canzoni che parteciperanno all'Eurovision. Vedremo se ci saranno dei concorrenti forti contro il nostro Francesco Gabbani. Grazie a Eddie Anselmi, alla prossima occasione parleremo moltissimo di questa Eurovision. Grazie Eddie. Grazie Marta. Noi ci ritroviamo tra poco, Traffico, e poi parliamo di social network. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Radio Tube. E sì, con Eddie Anselmi abbiamo un po' lanciato questa cosa, chi rappresenterà San Marino? Allora, una cantante sammarinese potrebbe essere. E potrebbe essere un cantante molto noto negli anni Ottanta, e potrebbe essere britannico. Io aggiungo che potrebbe essere anche il leader di un gruppo. Questi sono i rumors. Magari non sarà così. Fosse così, ci sarebbe da divertirsi moltissimo, moltissimo. Comunque, se guardate un po' su Twitter, i rumors li trovate. Allora, Twitter, un po' il social network che usano quelli che vogliono informarsi, Facebook, il social network che usano un po' tutti, ma ci sono i giovani che utilizzano soprattutto un altro social network che è Snapchat, e così ne parla una delle youtuber più famose, che è Alice Like Audrey. Ragazzi, questo l'ho scoperto l'altra sera e sono andata fuori di testa. Con l'aggiornamento di Snapchat adesso è possibile shazammare le canzoni tramite Snapchat senza avere altre applicazioni successive. Cioè, liberate la memoria del vostro iPhone perché Snapchat fa tutto da solo ed è una figata pazzesca. Number 6. Come fate a sapere se le persone che avete aggiunto vi hanno aggiunto a loro volta? Ragazzi, è semplicissimo. Dovete aprire lo Snapcode del vostro amico e se accanto al suo nick potete visualizzare il suo punteggio Snapchat, vuol dire che lui a sua volta vi ha aggiunto. Se non lo visualizzate, è brutto, ma non va aggiunto. Quindi, se volete shazammare, potete shazammare direttamente da Snapchat, e questo è un hack che ci ha dato Alice Like Audrey. Insomma, non c'è una roba in italiano. Se non avete capito come si usa Snapchat, siete anziani. Io mi sono messa lì a imparare di punta, perché non voglio ammettere di avere una certa età. Io voglio essere giovane, quindi mi sono messa lì e ho detto adesso imparo a usare Snapchat. È è l'app, il social network che usano i ragazzini, ma è talmente efficace che anche altri social hanno cominciato a fare delle cose tipo quelle di Snapchat, che sono poi le stories, cioè dei fotine, videini, delle cosine che rimangono 24 ore e poi se ne vanno. Ma perché tutta questa follia? Cerchiamo di capire cosa sono questi nuovi social network, perché piacciono ai ragazzi. Allora, io in questo RadioTube in cui sono tutta sola, per ragioni che vi ho spiegato poco fa, ho cercato un po' l'aiuto degli amici. E allora, vediamo se mi aiuta a capirne di più e a farvi capire di più, insomma, capirci di più tutto insieme, uno dei nostri più cari amici del Sabato del Villaggio e di Radio Tube, che è Michele Boroni. Ciao Michele! Buongiorno, buongiorno, buongiorno Marta! Allora Michele, esperto di consumi, esperto di tendenze, ma anche padre, quanti anni ha adesso tuo figlio? Mio figlio ha quasi 16 anni. Ah, ecco, quindi ci siamo ci siamo dentro. Perché io mi ricordo che tu parlavi sempre del tuo bambino piccolino, ma ormai sì, non è più piccolino. Infatti. E quindi a te tocca sapere tutte queste cose in quanto giornalista, in quanto esperto di marketing, in quanto eccetera, ma anche in quanto padre. Quindi, sti ragazzi, che modo hanno di usare i social network? Allora, Snapchat, come dicevi tu, è il social network del momento ed è proprio il social network realmente del momento, nel senso che prende tutto quello che oggi vogliono i ragazzi, ovvero comunicare senza pensare. Come abbiamo detto, Snapchat e poi di conseguenza anche tutti gli altri social network, diciamo, più diciamo storici tra virgolette, quindi Facebook, Instagram eccetera, adesso hanno anche loro le stories, ovvero la possibilità di pubblicare agli utenti di pubblicare piccoli video di 30-20 secondi eccetera eccetera, che poi si auto eliminano dopo 24 ore. Quindi diciamo che da una parte c'è la voglia di pubblicare tanto, perché se non pubblichi non esisti, perché poi ovviamente tutto sparisce. Quindi l'unica cosa che conta è raccontare una storia, qualunque essa sia. E poi non c'è tutto quel tema che invece era fortissimo in Facebook, in Twitter, eccetera, che era il numero dei follower, il numero dei like, okay. Perché su Snapchat manca tutto questo. Quindi diciamo, cioè, da una parte questo elemento del... è pubblicare molto, è ovviamente tutto molto basato sull'immagine e non più sulla parola, come invece è sul testo, certo. Come invece è su Twitter e su Facebook. Quindi molte immagini, la possibilità anche di giocare con le immagini, quindi tutta una serie di effetti, di filtri che ovviamente piacciono molto. E poi soprattutto... Poi l'altra cosa molto importante è che si è lontani da sguardi indiscreti dei genitori, dei professori e dei nonni, perché non lo sanno usare. Perché su Facebook hai tutta la famiglia. No, intanto in regia si stanno facendo gli Snapchat con le faccine da cane. Vedo delle cose che... Quelle sono molto divertenti. Cioè, siccome gli adulti non lo sanno usare, i ragazzi lo usano liberamente. Certo, certo. E poi c'è anche un altro fatto, che gli utenti sono più... diciamo portati a essere se stessi, proprio per il fatto che c'è questa immediatezza e non c'è dall'altra parte lo sguardo vigile del Matusa che magari lo guarda, lo osserva e cerca di capire. E poi meno patinato di Instagram, dove tutti devono essere strabelli. Meno patinato di Instagram. E poi c'è anche una logica quasi più legata al direct message, quindi a WhatsApp più che a Facebook, quindi diciamo lo vivono molto di più come un circolo interno di amici più che invece raccontare a tutti la propria opinione, il proprio quindi a tutti i follower, proprio perché manca questo elemento di diciamo numerica, diciamo, e quindi certo. Tutta la parte di chi ti segue, come ti segue, eccetera, eccetera. Ma il fatto che questi messaggi spariscano dopo 24 ore, perché piace tanto? Cioè, che cosa conta questo? Conta l'immediatezza, nel senso che comunque si sa, no? Cioè, ne parliamo anche purtroppo in cronaca insomma, nera, o comunque nella cronaca di tutti i giorni, che c'è la problematica di comunicare sui social, no? Che la gente ha comunque un'opinione e la spara e non ci pensa. Su Facebook queste cose rimangono, mentre su Snapchat questo non rimane, ma soprattutto sono immagini, quindi diciamo che c'è il doppio elemento, quindi da una parte una comunicazione puramente visuale e dall'altra il fatto di dire sì, vabbè, mi sono filmato in una posa particolare, ho fatto una cosa, però vabbè, tanto fra 24 ore sparisce. Anche perché se qualcuno cerca di salvarlo, cioè di fare uno screenshot, la persona viene avvisata. Assolutamente, sì. È così. Allora, io come vedi ho studiato abbastanza su Snapchat, sono preparata. Ma adesso ho scoperto che devo imparare Reddit. Beh, ma Reddit è da molto che c'è. Ho visto Reddit... che c'è da 11 anni e io non lo so ancora usare. No, beh, ma Reddit è completamente un'altra cosa. Reddit è, diciamo, una sorta di quelli che al tempo dei blog si chiamavano i bulletin board. Bulletin board system, sono praticamente dei grandi forum fondamentalmente basati principalmente sul testo, quindi una cosa molto quasi old new economy, e quindi più testo che immagini, ed è tematica, e quindi su tutta una serie di temi che possono essere quelli proprio super geek o nerd sulla tecnologia o sulle cose o sull'attualità, si iniziano delle conversazioni. E queste invece, al contrario di Snapchat, vengono come dire votate, quindi le opinioni e gli argomenti che sono più votati, in qualche modo likeati o commentati, hanno una posizione più alta e quindi vengono visti da più persone. Michele, questo è Reddit. Sì. Ti chiedo un'ultima cosa. Voglio sapere, perché siccome ci ascoltano molti genitori, visto che appunto tu sei un esperto, ma sei anche il papà di un ragazzo di 16 anni, tu cosa consigli ai genitori di fare? Cioè, cosa devono imparare? Perché posto che tutti i 40-50enni e oltre ormai usano Facebook, ma tu cosa consigli? Magari io sono sicura che poi i tuoi coetanei e i genitori dei coetanei dei tuoi ragazzi te lo chiedono. Tu cosa consigli di fare? Allora, io consiglio di non proibire del tutto, perché come al solito queste diventano poi dei boomerang, e quindi non proibire. Un'altra cosa, scusami, che non ti ho detto di Instagram, che secondo me, di Snapchat, che è fondamentale rispetto a noi che abbiamo utilizzato i social e il web, diciamo, da 8-10 anni fa. È tutto legato al mobile, è tutto legato al telefonino, questo è il grande passaggio, mentre Facebook, Twitter funzionano comunque su qualsiasi dispositivo, insomma computer, eccetera, eccetera, Snapchat no, E sul tema del mobile lì c'è bisogno di creare dei diversivi, perché altrimenti loro hanno tutta la loro vita in questo smartphone, e io non ho una soluzione sinceramente. Però già creare dei diversivi non è male. Come? Creare dei diversivi non è male, cioè fornire spunti di altri interessi. Assolutamente, io credo che sia quello, perché comunque proibire il telefonino, proibire il parlare, guarda, proprio pochi minuti fa parlavo con un genitore che era impazzito per le WhatsApp dei genitori, perché poi alla fine questo problema del mobile è abbastanza generalizzato, quindi non è soltanto che i ragazzi non lo sanno usare, anzi forse i ragazzi lo sanno anche usare meglio dei genitori. Ci sono questi grandissimi gruppi di WhatsApp dei genitori che tengono impegnati ore e ore su problematiche a volte anche non importanti. Quindi insomma c'è bisogno di una nuova istruzione, di una nuova alfabetizzazione e utilizzo di questi social. L'argomento è abbastanza vasto e complesso, però ecco, io credo che il diversivo, cioè far capire che l'intrattenimento, il tempo libero eccetera non è solo su WhatsApp, non è mi solo piace su, molto. Sugli smartphone. E poi magari facciamoci insegnare da loro cosa sono Snapchat, queste cose. Assolutamente. Io ci ho messo un sacco a capire, non sapevo neanche da dove partire, perché dicevo, ma lo apro, ma come comincio? Ma non lo so. Anch'io ho avuto molti problemi, devo dire. Adesso faccio uno Snapchat, lo faccio subito. Okay. Michele, grazie per essere stato con noi. MB, Michele Boroni, grazie, alla prossima. Sei ciao, sempre Marta. Prezioso. Ciao Michele. Grazie a tutti. Ciao, grazie ciao, mille. Buona giornata. Noi ci troviamo tra poco e tra poco saremo tutti trentenni. Tra poco. Radio Tube. Cioè io sono qua da 7 minuti che sto provando a mandare uno Snapchat. Adesso vediamo. E se io faccio storia, quando aggiungi uno snap, ok, la mia storia invia. Forse ce l'ho fatta mandare uno Snapchat in diretta. Insomma, ragazzi, è un delirio questa cosa di Snapchat. Ce l'ha spiegato per bene Michele Boroni in questo appuntamento con RadioTube, che come sapete così è un po' in solitaria. Sto navigando in solitaria questo sabato perché Daniele Bellasio non c'è, è un giornalista del Sole 24 Ore. Sapete che i colleghi del quotidiano oggi e da oggi non lavorano per questo sciopero a oltranza che è stato indetto ieri, e noi invece di Radio 24 stiamo attuando lo sciopero delle firme. Ve lo dico anche perché appunto sembra strano che io sia qui da sola, ma insomma è per una ragione, per un'ottima ragione, e questa ve l'ho appena spiegata. Allora, io ho una passione per un sito, per un gruppo di ragazze che si sono inventate una straordinaria idea. Hanno cominciato a fare dei video, ma non solo, che riguardano una generazione fantastica, che è quella dei trentenni. Età? 33? 21. Del 94. Capelli bianchi? Sì. No. È la cellulite? No, 20 anni, eh. Sì. Quante volte vai a ballare in un mese? Spesso, troppo. Una. E quanti cocktail ti servono per ubriacarti? Adesso anche uno. Quanto tempo ci metti a riprenderti da una sbronza? Poco, sono ancora giovane io. Almeno un giorno. Ti strucchi prima di andare a letto? Certo, sempre. E quanto ci metti? 5 minuti. Quanto ci metti 5 minuti? La ventenne, quanto ci metti 5 minuti? Ma io con 5 minuti non tiro neanche fuori la boccetta dello struccante. Straordinario questa sfida, trentenni versus ventenni. Una delle grandi anime di questo sito, i trentenni, che è diventato libro, è diventato tante cose bellissime, soprattutto questi video che mi hanno sempre fatto impazzire. Silvia Rossi, ciao Silvia. Ma la felicità di parlare, ma la felicità di trovarci per una volta in onda. Dai, non... Mamma mia, io che oggi ho chiamato a raccolta. Partono sigle, intanto mi spavento, oddio. Appunto, alla mia età ci si spaventa, ragazzi. Allora, per una volta, siccome questa settimana sono da sola, ho chiamato a raccolta tutti gli amici. Allora, Silvia, è esploso il fenomeno dei trentenni. È un'idea che è nata così con le tue amiche e poi è diventato... Cioè, un sacco di visualizzazioni hanno questi video. Ma fortunatamente sì, e la felicità di poterlo confermare è incredibile, Marta, perché è vero, è nato dopo un aperitivo sui Navigli, dopo l'ennesimo racconto delle sfighe generazionali di noi trentenni, ci siamo dette, ma perché non lo raccontiamo? Non lo raccontiamo in video, non lo raccontiamo su un blog, su un sito, perché non diamo la possibilità ai trentenni di raccontarci come si sentono e com'è questa generazione? E quindi da lì in poi, come dici tu, grazie al cielo è esploso tutto, quindi in grandi conferme. Forse c'era davvero il bisogno di una piazza virtuale dove poter dar voce alla generazione dei trentenni. Questo video di cui abbiamo parlato ha in questo momento 571.000 visualizzazioni, e quindi un bel numero su YouTube, su YouTube. Facebook, sì, perché poi su Facebook 2 milioni e passa. Ecco, di solito si parla dei trentenni come una generazione in crisi, tra precariato, insomma, lo sappiamo. Voi invece avete trovato anche un modo per ridere di queste cose? Assolutamente, uno, perché altrimenti non campiamo più. È vero. quindi conviene riderne, perché altrimenti ciao, arrivederci. E sì, hai ragione tu, nel senso che non diciamo niente di nuovo se raccontiamo che la nostra è una generazione appunto un po' sfigata, perché è la generazione di mezzo, ci siamo ritrovati a vivere un sacco di cambiamenti e insomma quando toccava a noi la festa è finita. Però come affrontarla se non... Bella questa, quando toccava a noi la festa è finita, è vero. È vero, perché cavoli, noi abbiamo vissuto la nostra infanzia con il boom degli anni 80, i nostri genitori non ci hanno fatto mancare niente, chi più chi meno ovviamente, e quindi siamo cresciuti con il meglio. E poi a un certo punto, quando mia madre va già a me, e le mamme delle nostre amiche avevano loro e pure fratelli e sorelle, noi siamo qua e diciamo, oh mio Dio, allora adesso dobbiamo fare un attimo di conti, perché ancora un po' che aspetto, chissà quando farò un bambino. Però è inutile, ti ripeto, piangersi addosso, bisogna continuare. E per continuare cosa fai? Perdi la determinazione? No, e quindi quello che noi abbiamo riscontrato occupandoci dei trentenni della nostra generazione, abbiamo scoperto appunto una generazione molto determinata che ha voglia di cambiarlo davvero il destino, perché appunto quando è toccato a noi i piatti non erano così pieni come prima, no? E quindi no, ci stiamo riempiendo da soli, ecco. Allora, ascoltiamo un altro pezzettino di un altro video dei trentenni. Gonfia, gonfia, gonfia, gonfia. Alimentazione? No, creo 200 intolleranze, non mangio niente, latticini. Sport? Vado in metro, chiedi. Ti apro un caffè? Il caffè in gravidanza? No. Ma la cavitazione però la posso fare, no? No. Ho una soluzione. Un trattamento che sgonfia, sgonfia. Sono 50 minuti, adesso ti rilassi, bella comoda. Se mi scappa la pipì, e se ho freddo, e se mi suona il telefono. Tatuaggio sì? No. Ti ricordi quel trattamento, quello brucia grossi? No. C'è Silvia che sta facendo lo slimming. È un po' agitata. Goccine. 10? 15. Le goccine per fare il trattamento estetico. Silvia, beh, grande appunto ironia su tutto. E devo dire che tra i video che mi sono piaciuti di più, appunto, quello che hai fatto con tua mamma, che fa capire come le signore di un'altra generazione alla fine diano una pista tutte in ogni caso, cioè che abbiano fatto veramente, ecco. E poi tutti quelli che insomma fanno capire come questa generazione si senta a volte un po' inadeguata, però anche se insomma alla fine anche un po' chi se ne frega, ma dall'estetista, certo, o a San Valentino, o quando tu ti rendi conto che non ti puoi più permettere dei vestiti o delle cose, chi se ne frega. Ma Marta, ma di che parliamo? L'autoironia cosa fa? Salverà tutti quanti, ma no? Certo. Se non si ride di se stessi e non si è sincere dicendo sì, ok, va bene, e gli short di quando avevo 20 anni non li posso più infilare, me ne farò una ragione. Si cresce, sì, la bellezza cambia e verrò apprezzata per altre cose, no? No, dai, ce la stiamo raccontando che non ci crediamo noi per prime. Silvia, ma io ti posso tenere ancora un po' al telefono? Facciamo la viabilità. Prima a fare la viabilità c'era un ragazzo con una voce così bella. Sentiamo se c'è ancora lui. Viabilità e poi torneremo insieme. Silvia, stai con noi, state anche noi con voi, con noi, insomma. Viabilità. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. YouTube. Io sono convinta che questo collega che fa la viabilità sia anche un bel ragazzo, perché dalla voce secondo me è anche un bel ragazzo. Oggi che non c'è Daniele Bellasio le posso dire tutte. Silvia, allora, io voglio farti sentire una cosa e mi dici cosa ne pensi. Stai lì e ascolta. Va bene. Amica mia, è bello che tu sia vivace, svelta e carina come me. Poi con la fantasia e un tocco di magia, più ora non c'è più, e invece crimici sei tu. Dire a Valeria in regia: Valeria, a un certo punto devo parlarla, non posso farla sentire tutta. Ma ha detto: tu questa falla sentire tutta. Non posso. Silvia, pari pam pum, eccoci qua. Allora, io stavo ballando. Anch'io, guarda. Anch'io. Anche se io ero, essendo io già più vecchia, infatti ricordati che dobbiamo farlo il video, perché abbiamo, io ormai sono già nei quarantenni. Sfida. Abbiamo una grande sfida da consumare. Esatto, Marta, io sono già nei quarantenni, quindi dobbiamo inventarcelo. Perché voi trentenni, con la T maiuscola, perché appunto trentenni è il nome di una pagina Facebook, di un sito, di un canale YouTube, fate un sacco di cose, siete seguitissimi. I cartoni animati sono una parte molto importante, cioè perché trascinano subito un sacco di nostalgia, cioè ogni tanto postate qualcosa e delirio subito. Impazziscono, cioè, sì. Il fattore nostalgia, romanticismo per la nostra generazione è proprio, cioè, una bomba che esplode, perché ogni volta, appunto, come dicevi tu, che pubblichiamo un gioco della nostra infanzia, un cartone, un'icona di quando, cioè, dai vari Dylan McKay a... Ah, beh, quelli di 90-210 sono delirio, cioè, sì. Poi adesso tu mi fai sentire crimi e quindi anche libri, bidoni. Sì, siamo degli inguaribili romantici, come direbbe Vasco, dei nostalgici che ogni volta che vediamo qualcosa che ci ricorda la nostra infanzia, gli occhi... ci vengono le stelline come quelle dei cartoni animati giapponesi. Sì, ma è la cosa più bella, è che c'è, guai a perdere quella sensazione lì, quel fanciullesco che c'è in noi, non perdiamolo. Allora. Perché alla fine... Silvia, ma tu non sai perché io ho fatto sentire questa canzone? Perché da oggi, 11 marzo fino al 16 luglio, dobbiamo andarci assolutamente al Museo della Figurina di Modena, apre Parim pam pum, le bambine magiche nelle figurine. Quindi, no, vabbè, ecco, andiamo, no, subito. Vabbè. No, esatto, andiamo subito. Andiamo insieme. E abbiamo al telefono una delle curatrici, insieme a Francesca Fontana, di questa Parim pam pum, Telma Gramolelli. Buonasera, Telma. Buonasera. Beh, noi già siamo lì. Io e Silvia Rossi siamo già lì. Con la mamma. Venite a trovarci. Allora, come è nata questa idea? Perché è bellissima. Sì, beh, allora, state parlando con una quarantenne, presenti. Francesca Fontana è un po' più giovane di me, però insomma anche lei condivide gli stessi ricordi fondamentalmente, e noi al Museo della Figurina abbiamo una mostra che proponiamo tutti gli anni, che si intitola 80-90, tutti gli anni proponiamo un focus differente. L'anno scorso abbiamo proposto i robot, eravamo stanchi di cose per i maschi, no, esatto, basta, appunto, robot tutta roba da maschi, no, Ma tra l'altro vi volevo dire che siamo reduci, è proprio appena finita da una visita guidata che è stata veramente strepitosa, perché abbiamo proposto proprio le sigle dei cartoni animati, delle pubblicità, dei telefilm, tra cui Beverly Hills per l'appunto, no, e c'erano tutte le persone, un centinaio, che cantavano le sigle, ma non solo le donne ma anche gli uomini. È stato strepitoso, divertentissimo. Cioè, non la fate solo questa volta, la rifate, vero? Perché arriviamo noi. Allora, la visita guidata non era prevista, pensavamo di farla solo oggi, ma dopo un successo del genere ci pensiamo seriamente a riproporla. Alla grande, cioè pronte. Assolutamente. Noi, cioè, Silvia, andiamo, sì, per sì, forza. Prontissime, Marta. Pazzesco, pazzesco. Telma, voi come mai avete scelto le bambine magiche? Perché comunque noi da piccole avevamo questo esempio, avevamo o le povere orfanelle lacrimose, oppure, esatto, oppure queste che avevano dei poteri pazzeschi, belle. Non è detto che nel futuro non arrivino anche le orfanelle lacrimose, però in questo caso volevamo insomma veramente fare una cosa spumeggiante, e quindi avendo tantissimi album di figurine della Panini e non, insomma, noi siamo al Museo della Figurina e proprio quindi conserviamo album di tutte le epoche, a partire dal 1870, ma chiaramente anche del secolo appena passato, avevamo tantissimi album che trattavano questo tema, per cui sono stati gli album stessi a dirci: guardate, ci dovete esporre. E quindi abbiamo pensato di dedicare un'intera sezione di 80-90 proprio a queste bambine magiche, che tra l'altro, non so se lo sapete, sono divise tra maghette, streghette ed eroine. Maghette, streghette ed eroine, ok. Bravissime, sì, perché le maghette sono quelle bambine che i poteri li ottengono in un determinato momento della loro vita da dei folletti, e quindi Crimi, quindi Magica Amy, quindi Standy dei mille colori. Però ci sono le streghette che invece i poteri ce li hanno innati, arrivano da un altro poi pianeta e vengono catapultate sulla Terra. Bia, per esempio, Renzi, Lululandro tra i fiori, ci sentiamo male, sì, sì. E poi abbiamo le eroine, quelle sono veramente un altro livello, perché devono salvare il mondo sostanzialmente dal male, e quindi abbiamo le Sailor Moon e le Sailor Scout. Allora scusate, ma vi devo fare un momento di coming out. La mia preferita è qua, sentite. Dolce Lulu, mondo biondo Lulu, luna stella Lulu, tutta bella Lulu. Succede di tutto, ovviamente io non ho più voce perché sto cantando e ballando, mentre Valeria in regia ha detto che lei aveva la bacchetta magica col fiore, ragazzi. Sì, cioè altissimi livelli, qua Lulu l'angelo dei fiori. Sì, tra l'altro Lulu ha una tecnica di trasformazione che è diversa da tutte le altre. Si può dire che Lulu, in Lulu davvero l'abito fa il monaco, perché non so se vi ricordate, lei non è che si trasformasse in altro, semplicemente aveva questa spilla che rifletteva l'energia dei fiori e le disegnava addosso una divisa, tipo se doveva spegnere un incendio non è che diventasse un pompiere, no, le veniva disegnata addosso una tuta ignifuga, se doveva scalare una montagna addosso aveva l'attrezzatura da trekking e quindi poteva scalare la montagna, quindi è un po' sui generis anche Lulu rispetto alle altre streghette. Fantastico. Silvia, siamo pronte allora per la gita, cioè ci organizziamo alla grande spedizione dei trentenni al Museo della Figurina di Modena, per forza. Un bel pullman davvero. Un pullman, tanto è fino al 16 luglio, organizziamoci per tempo, ok? Abbiamo un sacco di tempo. Ecco, ecco, allora io devo ringraziare intanto Silvia Rossi, i trentenni, ragazzi, proprio stanno facendo un successo pazzesco in rete, non solo per trentenni, anche noi che abbiamo qualche anno di più o di meno ci possiamo divertire un sacco. Grazie Silvia, un abbraccio grandissimo. Un abbraccio forte forte forte, grazie ragazzi. Grazie Silvia, e poi grazie a Telma Gramolelli. Allora, Museo della Figurina di Modena, parim pam pum, le bambine magiche nelle figurine fino al 16 luglio, quindi c'è tempo, ma non fate come me che vado sempre all'ultimo momento e poi corro, no, ci si organizza e si va a Modena a vedere parim pam pum. Grazie Telma, veramente una bellissima idea, davvero grazie, a presto. Grazie a voi, a presto. Grazie Telma, io devo ringraziare tantissimo per questa puntata Cristian Goldoni, che è stato veramente indispensabile più che mai, perché insomma 3 ore da sola sono state una bella maratona, ma ce l'abbiamo fatta. Devo ringraziare moltissimo colei che aveva non solo l'album delle figurine di Crimi ma anche la bacchetta magica a forma di fiore, Valeria Bernardi in regia. La prossima settimana ritorniamo, speriamo, come sempre in due per questo RadioTube. Saluto anche Daniele Bellasio, che speriamo davvero la prossima settimana possa tornare con noi. Al prossimo sabato.